Mi perdo se ti guardo, se mi stai vicino. Mi sembra di essere tornato bambino, come quando ero a scuola ed avevo vergogna, quando ancora credevo facesse tutto la cicogna. Sogna ma bisogna crescere, sei bambino. Da grande pensavo è più semplice perfino, come un pesce che va a bocca. Beato chi ti tocca, su dai cupido, prendi questa freccia e scocca, anzi blocca questo sentimento. Me lo sento questa storia, sarà un tormento, come se fossi chiuso in un convento. Butto su questo testo quello che sento. Se potessi ti scriverei, se potessi ti chiamerei e direi, se potessi ti stringerei, se potessi ti bacerei, non me ne andrei, se potessi, ma non si può, se potessi saprei. Tempo per capire se potesse funzionare, ma non sei con me. Vorrei trovare un modo per convincerti, vorrei poter parlare senza perdermi. Mi piace come ridi, ma confidi senza auspici e poi svestiti. Saremo liberi di esprimerci come onde che si inseguono, come due nuvole che si abbracciano. Mi spiace, ti ho chiamato piccola, ma adoro quando dici finiscila. Da tanto tempo che non ci si sente più, vorrei trovare un modo per vederti tu. Non so cosa pensare, puoi inventare mille scuse per chiamare, per cercare una speranza a cui potersi aggrappare. Pare che potresti essere quella che mi fa riflettere, che non sempre si può correre, che a volte meglio non travisare. Se potessi ti scriverei, se potessi